Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Alcuni dicono che in situazioni di rischio estremo o presunto tale, la vita ci scorre davanti come un film. Tutte balle. L'unica cosa che mi passa per la testa è una sola, semplice domanda. Chi me l'ha fatto fare di venire a schiantarmi proprio qui in Germania? Ciao, sono Angelo, vivo a Roma, ho 44 anni, lavoro come dirigente in una società di telecomunicazioni per la quale viaggio parecchio, praticamente tutto il mondo. Un disclaimer necessario alla puntata di oggi, che è martedì 13 novembre 2012, sono le 16:08, questa è Radio 24. Il disclaimer necessario è che questa puntata non è sponsorizzata dal Ministero dei Trasporti, non ci è stata chiesta una campagna per la sicurezza stradale o per allacciarsi le cinture anche posteriori in automobile, che peraltro credo sia obbligatorio, a prescindere, no? È obbligatorio anche allacciarsele dietro. Ecco, non è nulla di tutto questo, perché è vero che la storia di oggi che ha scritto Angelo, che ha scritto e vissuto Angelo, parla di un incidente stradale, ma parla soprattutto di kebab e di odore di cipolla nell'aria. 349-238-6666, oppure voi siete qui, Radio 24, sul profilo Facebook del programma. È la storia, quella di Angelo, del tempo che si dilata all'infinito, e tutti i dettagli di quei 10, 15, 30 secondi ti rimangono impressi come la sequenza di un film, neanche a rallentatore, proprio come una sequenza di fotografie. Sai quando non ci sono i filmati di qualcosa che succede, c'hai solo i fotogrammi? Ecco, oggi si parla di quello, si parla di quando vi è successo qualcosa, qualunque cosa si trattasse, che vi ha dato la sensazione che il tempo si dilatasse quasi all'infinito. 349-238-6666. Barbara scrive, ad esempio: durante un'immersione, la prima sulla barriera corallina, attacco di panico. Aia, non deve essere bello un attacco di panico sott'acqua. Avverto il mio compagno che voglio risalire. Lui sottovaluta la cosa. Ovviamente mi sento peggio, e a quel punto risaliamo con molta calma. E in quei momenti ho pensato: chi me l'ha fatto fare? Laura, in autostrada, l'auto davanti a me frena perché c'è una colonna. Mentre freno faccio in tempo a pensare: spero di riuscire a fermarmi, spero di riuscire a fermarmi, e guarda te se devo farmi male mentre sto andando al mare a trovare mia figlia. Il tutto in mezzo secondo, credo, per la cronaca, nessun tamponamento. 349-238-6666. Simona: a me è successo durante un incidente in bici, fu l'unica volta che mi lasciai convincere a farmi tirare da un'amica in motorino. Io avevo una mountain bike. Quella roba lì del farsi tirare in motorino credo sia una delle cose più, cioè, che hanno fatto tutti. Bonini indica il gomito, ti sei rotto un gomito facendoti tirare in motorino. È una roba che hanno fatto tutti, e credo sia la seconda cosa più pericolosa dopo lanciarsi dalla stratosfera da 39 km e cadere in caduta libera, fare il record del mondo, avvitarsi e tutte quelle menate lì. Insomma, mi facevo trainare da una mia amica, avevo una mountain bike, manubrio difettoso, così, giusto per non farsi mancare niente. Se lo toccavi con una certa pressione si girava tutto. Ma scusa, una certa pressione sul manubrio della bici cosa vuol dire, Simona? Mentre ritornavamo dal mare, in un pomeriggio d'agosto, attaccata al braccio della mia amica, a un certo punto prese una buca. Il mio manubrio colpì il suo ed io volai insieme alla bici. Quel volo durò un'eternità. Mi ricordo chiaramente che mentre giravo su me stessa, ero concentratissima sul mio corpo. Tutto stava succedendo molto velocemente, ma in quel momento l'attenzione sugli istanti era totale. Per me fu così. 349-238-6666. Sul profilo Facebook anche ci sarebbe piaciuto usare un hashtag che era quando il tempo si dilata all'infinito, però poi l'hashtag avrebbe occupato tutto il tweet, quindi abbiamo deciso l'hashtag, Tiziano, qual è? Kebab, io direi. Ok, sembra assurdo, lo so, sembra assurdo, ma l'hashtag della puntata di oggi sul profilo Twitter, voi siete qui, R24, è kebab. E il motivo, molto semplice, è questo qui. Lo stridore arriva da dietro, inaspettato, violento. Nell'arco di pochi istanti, forse decimi di secondo, passo da uno stato di quasi dormiveglia a quello animalesco di allerta totale. Le percezioni diventano 100, 1000 volte più intense. I graffi dei sedili, l'odore della stoffa e soprattutto il soverchiante stridore del pericolo che si avvicina. Mi colpiscono quasi fisicamente e mi trascinano dal dormiveglia al presente, strappando dalla memoria i flash della giornata appena passata. Sveglia prestissimo, bambini a scuola, aeroporto, decollo ritardato, turbulenze, Francoforte, taxi, autista turco, kebab e cipolle per colazione. Autostrade tedesche, diavolo quanto corrono, cambio di corsia, clacson, frenata disperata e poi l'urto. Plastico e brutale. Fogli che volano, una striscia di fuoco che preme sul petto e sembra volermi fare sputare fuori tutta l'aria che ho nei polmoni. Grazie Ale per avermi convinto in questi anni a mettere la cintura di sicurezza sempre, anche sui sedili posteriori. Se nella sonnata mattinata tedesca non ti avessi automaticamente obbedito, cosa che per inciso faccio sempre, ora sarei in gara con la bottiglietta d'acqua che era sul sedile per vedere chi si abbraccia prima ai tergicristalli. In effetti non ho mai avuto incidenti particolari in vita mia, eccetto una volta, sono stato tamponato a Roma, ma non è mai stato nulla di assolutamente paragonabile, nel senso nulla che in effetti potesse portare a un rischio serio, come quello che è successo in Germania. È curioso, ma non c'è un'immediata sensazione di pericolo. Anzi, sembra di vivere una scena di Matrix. Il tempo si espande e non è la paura a dominarlo, ma una cresciuta percezione delle cose, un po' come questo incredibile tanfo di kebab alla cipolla. Alcuni dicono che in situazioni di rischio estremo o presunto tale, la vita ci scorre davanti come un film. Ecco, tutte balle. L'unica cosa che mi passa per la testa è una sola semplice domanda: chi me l'ha fatto fare di venire a schiantarmi qui in Germania? E poi il tempo ricomincia a scorrere a velocità normale. L'urlo del tassista, la sua veloce e disperata manovra per evitare il finale classico dei telefilm tedeschi, lo schianto sul guardrail. Ed infine l'ultima fortissima frenata a pochi metri dallo spartitraffico, seguita da un silenzio totale. E non che fuori non ci sia casino, fra clacson e automobili che sfrecciano c'è abbastanza rumore da coprire il decollo degli aerei del vicino aeroporto di Francoforte. Ma, strano a dirsi, dentro il taxi c'è un silenzio assoluto. Il tassista si volta, ci guardiamo negli occhi. Una mutua comprensione scorre fra noi due. Siamo vivi. Siamo stati attori protagonisti di un incidente in un'autostrada tedesca, quelle senza limiti, a 130 km all'ora, e siamo vivi. Un sorriso velocemente ci passa sul volto e capisco che il suo pensiero, come il mio, è appena volato a chi potrà rivedere ancora domani. Poi il mondo torna a bussare ai margini della nostra consapevolezza per riportarci ad affrontare il presente. Un presente tappezzato da tutto quello che c'era in macchina. Carta, giornali, bottiglie e quel dannato kebab ai crauti e cipolle che il tassista teneva sul sedile accanto. Se prima di partire la macchina aveva un vago odore di spezie, ora fa concorrenza ad un souk. Lui comincia a imprecare perché gli hanno sventrato mezzo taxi. Io invece mi preoccupo per l'altra metà, ancora intera, che per inciso contiene il sottoscritto. E che si trova ancora in mezzo alla corsia di un'autostrada tedesca, con auto e tir che ci sfrecciano a fianco. Lui però mi tranquillizza: non ti preoccupare, le autostrade tedesche sono le più sicure al mondo. Non ti sei accorto che quando ci vedono mettono le doppie frecce? Devo dire che la situazione è piuttosto preoccupante. Sarà che magari sono provinciale, ma stare fermo su una biforcazione autostradale mi mette un po' d'ansia. E sembra che la cosa debba durare ancora un po', perché dobbiamo aspettare il carro attrezzi e le autorità. Dopo 45 minuti di attesa e un milione di doppie frecce viste decisamente troppo da vicino, ecco che finalmente arriva la mitica Polizei tedesca. E la prima cosa che penso quando li vedo è che è vero, viaggiano in BMW, In Germania sono andato appunto per un incontro della mia azienda, per incontrare alcuni colleghi a Francoforte. Ci vado abbastanza spesso, così come insomma da altre parti in Europa, al di fuori dell'Europa. Ma in assoluto appunto l'esperienza vissuta è stata la prima del genere su un viaggio di lavoro. La portiera lato guida si apre e scende una poliziotta che pare la sorella buona di Claudia Schiffer. Si apre anche l'altra portiera. Io mi aspetto Derrick. E invece scende un individuo a metà fra Conan e Jack lo Squartatore. Si avvicina all'autista del camion e chiama il tassista dall'altro lato dell'autostrada. Poi, alzando semplicemente le mani, apre un passaggio nel mar rosso delle macchine che sfrecciano. È immenso. Trasuda autorità da tutti i pori. Rimango cautamente sul bordo della strada in attesa degli eventi. Conan, lo Squartatore, non mi ha convocato e io non vedo motivo di prendere iniziative non autorizzate. Non capisco il tedesco, ma dal tono della conversazione non può esserci che una conclusione. Lui li farà mettere in ginocchio e li finirà con un colpo alla fronte. Poi però all'improvviso qualcuno dice qualcosa e mi indica. Conan si ferma e mi guarda fisso. E quando mi dice «come», io non posso far altro che obbedire, ovviamente. Ecco, il dialogo che ne è seguito è uno dei più surreali e incredibili cui mi sia mai capitato di partecipare. Ma alla fine, non so come, ne sono uscito vivo, dal dialogo forse più che dall'incidente. Alla fine i due poliziotti mi accompagnano a un taxi e con una certa apprensione mi avvicino al primo della fila per tornare in aeroporto. Il primo taxi è una Citroën Berlingo, credo l'unica auto non tedesca della nazione. Entro e sono avvolto dalla colorosa accoglienza tedesca elargita in forma di una solida fragranza di kebab, di pesce, crauti e cipolle. È un drammatico déjà vu. L'autista però è una simpatica signora sui 50 che mi accoglie con un sorriso infarcito di pesce cipollato e bofonchia qualcosa sulla sua merenda spezza pomeriggio. Poi comincia a ridere e parte a razzo facendo inversione a U con il semaforo rosso. Se c'è un ricordo che probabilmente mi perseguiterà negli anni a venire, è quell'incredibile, persistente e pungente odore di kebab e cipolle che producono i taxi tedeschi nelle frenate d'emergenza. Capita delle volte che succedono delle cose per cui il tempo si ferma, nemmeno si ferma, semplicemente rallenta drasticamente e tu hai la sensazione di vedere tutto meglio, di capire tutto meglio, di sentire tutto meglio e non ti sei fatto un trip, è semplicemente successo qualcosa. 349-238-6666, 600 metri di caduta libera dalla parete nord del Presanella. Ecco, questo messaggio che arriva senza firma, senza sapere cosa sia il Presanella da parte mia, ha tutto un sapore che è sicuramente più forte del kebab alla cipolla e che mi inquieta. In moto un'auto mi attraversa la strada e la centro, sorvolandola in un tempo che pare infinito, penso solo metti le mani avanti, metti le mani avanti, metti le mani avanti, ma non c'è la conclusione, quindi immagino abbia messo le mani avanti e se le sta usando per mandare l'SMS è tutto a posto. 349-238-6666, tutto perché su quel taxi c'era un fortissimo odore di cipolla. Pronto, Angelo? Pronto, sì, sono qui. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, tu? Benone, sei al lavoro in questo momento? In questo momento sono nel traffico di Roma e a 5 km all'ora non ci sono rischi di incidenti. Tra l'altro mi dicevi prima fuori onda che stai andando a fare una cosa che non ha a che fare col tuo mestiere, né con la tua famiglia, né con le tue abitudini e che probabilmente potrebbe diventare argomento di un altro racconto, perché stai andando a toglierti un neo? Esattamente, succede, ogni tanto va fatto, ti devi controllare e ogni tanto ti fanno una sorpresa, no? Dice, guarda, devi toglierti sta cosa. Ma come? È stato là per 40 anni e ti dicono te la devi togliere. Ma uno solo? Perché di solito fanno un pacchetto tipo da 3 o 4 quando vai... Sì, ma non gli devi dar retta, no? Oh. Poi ti fai fare lo sconto e si riduce tutto a uno, va bene. Senti, dimmi invece, innanzitutto cosa ci vai a fare in Germania così di frequente? Per lavoro, lavoro lavoro per una società di telecomunicazione, quindi seguo mercati europei, diciamo anche al di fuori dell'Europa, e necessariamente ti devi spostare. Puoi compensare molte volte col video, però alle volte c'è poco da fare, la presenza fisica è difficilmente sostituibile. Senti, c'è purtroppo, io questa è una cosa che diciamo sempre, no? Visto che i racconti che arrivano purtroppo raramente sono brevi, spesso sono lunghi. Il tuo era molto, devo dire, molto divertente nonostante tutto. La parte più divertente l'ho dovuta togliere perché era difficile da raccontare in radio, perché appunto era di più rispetto alla durata che abbiamo nel programma. Ed era quella del dialogo con questo poliziotto tedesco. In due parole, che cosa è accaduto quando lui ti ha chiamato e ti ha detto come? Ma guarda, praticamente ho rivissuto e rielaborato una scena di un film di Sergio Leone, no? Sai, il brutto, la buona e il cattivo, in cui però il brutto e il cattivo erano la stessa persona, il poliziotto tedesco. Per di più, ma scusa, tu che colpa? Che colpa avevi tu? Secondo me la colpa principale in quel momento è che ero italiano. A parte quello, nient'altro. Vabbè, senza stare a fare del luoghi comunismo generale, esatto, certo. Esatto, okay. Sciovinismo italiano altro, però devo dire che in effetti io non l'ho capito. A distanza di mesi continuo a non capirlo, e quello che so è che qualora dovesse fermarmi nuovamente una pattuglia di poliziotti tedeschi in autostrada dietro un taxi, io comunque obbedisco e sto zitto. Ma lui cosa ti ha chiesto? Lui cosa ti chiedeva? Cosa voleva capire da te? Guarda, giustamente nella tipica precisione tedesca ha chiesto a una persona che ha avuto un incidente e che praticamente l'incidente da addormentato, perché erano le 7 di mattina, le 8 di mattina, mi chiedeva dettagli particolarmente precisi. Per esempio, che ne so, quanto è durata la frenata? 3, 5 o 7 secondi? Io che ne so, non è che stavo lì col cronometro, no? Ma il tutto in inglese te lo chiedeva, ovviamente, immagino. Sì, ha provato il tedesco prima, perché diciamo io ho colori che sono abbastanza simili a quelli dei nativi. Poi gli ho fatto gentilmente capire che se volevo ottenere qualcosa avrei dovuto passare all'inglese, con un po' di, come dire, sai, quella sorta di un po' ritrosia è passata all'inglese, appunto, e pretendeva questi dettagli. E quindi il tenore delle domande erano queste: quanti secondi è durata la frenata? Quanti secondi, ma dopo che è fatto, ma poi... chiaramente anche lì, sempre nell'ottica di una precisione assolutamente teutonica, mi ha detto va bene, fammi il disegno. E tu che pensi? Fai un disegno, fai un disegnino, fai la strada, fai i 4 blocchetti delle macchine, eccetera. E lui ti risponde, fa, è uno sgorbio, rifallo. Allora, capite, a quel punto era complicato, lo immagino. Beh, Angelo, senti, e poi ti devo salutare, hai mai più mangiato kebab nella tua vita dopo quella mattina? Ma lo sai che non... stai facendo pensare ora? No, per ora no, evidentemente è rimasto qualcosa nel naso, nei pori, dappertutto. Magari dopo l'operazioncina, che non è nulla di che, giusto? Sì, assolutamente. Assolutamente. Sì. Allora ti lascio andare tranquillo verso il tuo destino, ti ringrazio per la storia, per la chiacchierata. Grazie a te, ciao. Ciao Angelo, buona serata, grazie mille. Volo di 4 metri dal balcone del primo piano, che diciamo si domanda esattamente come accade. Corsa a pronto soccorso, radiografie, ecografie, tac, senza e con contrasto. Dopo 4 ore disteso sulla tavola spinale a chiedermi come è potuto succedere, mi dicono, è illeso, può andare. Vuole un antidolorifico per questa notte? Quella di Angelo è una fototessera, è chiaramente una fototessera perché c'ha il maglioncino messo bene, sulla camicina messa bene e guarda dritto davanti a sé con lo sfondo bianco. Però andatevela a vedere, non è tanto la foto di oggi la cosa interessante, è un'altra, è che Margherita, che non c'è, è dovuta andare via prima, mi ha stampato questa foto. Poi però sotto ce n'era un'altra in cui lui effettivamente, forse perché è in bianco e nero ed è un po' pettinato, sembra un po' John Fitzgerald Kennedy in questa foto, lontanamente. E Margherita mi ha scritto: Angelo, lui dice che questa sembra la foto della tomba e allora mi ha mandato l'altra in bianco e nero, ma a me sembra ancora più della tomba, ma vabbè. Kebab, sostantivo maschile invariabile, piatto di spiedini di carne di montone o di agnello arrostiti alla fiamma o cotti alla griglia, a volte intramezzati con verdura, tipico della cucina medio orientale. Anche il locale pubblico in cui si preparano e si vendono tali pietanze. Etimo, adattamento dell'arabo kebab, polpetta, data 1887. Certo, sì. Sì, Esattamente, Alessandra. 349-238-6666, il momento in cui la vostra vita vi è parsa lunghissima o semplicemente un attimo della vostra vita vi è parso nitidissimo e preciso. Andrea, io non credo che se la ricordi come nitidissimo e preciso, Andrea, questo momento. Sono caduto dalla seggiovia a Bormio quando avevo 16 anni, illeso e sommerso dalla neve perché ci stavamo fumando una canna. Marco è quello che mentre cadeva in moto diceva metti le mani davanti, metti le mani davanti, metti le mani davanti. Scusa, polso fracassato ma vivo, mi indica Marco. E poi, questi sono i messaggi che preferisco. Non so se sono veri, ma credo di sì però, perché abbiamo un ascoltatore che è stato in legione straniera, no? Gerardo, immaginate di trovare... Scusa, ce l'hai una base tipo di paura, Paolino? Tipo di paura non vuol dire niente, però di grande tensione, una roba... no, Mission Impossible è una tamarrata. Qualcosa tipo questa. Immaginate di trovarvi su un G-222 dell'aeronautica francese, davanti allo sportello d'uscita aperto a 800 metri di altezza, con alle spalle il peggior istruttore della legione straniera che ti sta per dare un calcio per buttarti fuori al tuo primo lancio in assoluto con il paracadute. Questo è vero terrore. Gerardo, guarda, solo a leggerla c'ho la pelle d'oca. Figurati quanto ti si può essere allungata la vita in quegli attimi. Ma sei qui a raccontarlo. Sono tutti quelli che non sono qui a raccontarlo che purtroppo... Io e la mia Mini, 50 all'ora, improvvisamente sepolta viva, ferma, suono il clacson per segnalare la mia presenza. Non è male come reazione suonare il clacson perché non sai dove sei. Apro gli occhi e mi accorgo di essere in un albero, che cadendo mi aveva centrato. E poi Cristina, questo ecco, i motivi per cui, diciamo, uno dovrebbe uscire prima dal lavoro. In sostanza per cercare di vivere un po' più fuori e meno sul posto di lavoro, ma in realtà, come scrive Cristina, per farsi investire, vecchietto novantenne... col cappello e la panda a metano, tra parentesi, la panda a metano immagino tu l'abbia realizzato dopo, che era a metano. Però è indicativo, è vero che è indicativo, Cristina, forse più del cappello. Insomma, vecchietto novantenne, cappello e panda a metano, mi centra in pieno sulle strisce pedonali. Mentre volo per terra penso perché oggi sono uscita prima dal lavoro. E visto che si parlava di incidenti tutti usciti bene, e visto che non siamo sponsorizzati dal Ministero dei Trasporti e non è una campagna di per la sicurezza stradale, abbiamo pensato che, visto che insomma tutti quanti hanno fatto un incidente in cui tutto a posto, tutto bene, bene, facciamo la costellazione amichevole. A quel punto è un vero dramma. La costellazione amichevole, non so se, a parte che di solito è sempre bagnata, perché perché se è sul motorino è sempre fradicia, quindi non è mai utilizzabile. Se è in automobile è sotto qualche altro documento, sotto qualche altro foglio, non si trova mai. Tant'è, se riuscite a trovare la costellazione amichevole, abbiamo scoperto un manuale che vi indica come compilare la CID, si chiama, costellazione amichevole di incidente, ed è questo qua. Quotidianamente, sia per andare al lavoro, sia per svago o comunque per spostarci, ci serviamo dell'automobile. Non sempre le cose vanno lisce e una disattenzione o un mancato rispetto delle norme possono portare a incidenti. Nel caso in cui lo stesso riguardi solo due vetture, è possibile che le due parti compilino il CID, la constatazione amichevole di incidente. Scopriamo come compilarlo. Punto 1. È importante, per non incorrere in spiacevoli ritardi, compilare correttamente il CID. E grazie. Dedicando adesso la massima attenzione per pochissimi minuti. La cosa essenziale, sempre dopo l'incidente, è mantenere la calma. In quanto innervosirsi ormai non è più necessario, dal momento che il danno è fatto. Punto 2. Il CID si compone essenzialmente di diverse parti ed è importante che tu le compili tutte in modo preciso. Compila con i tuoi dati le sezioni dedicate al conducente A. In essa dovrai indicare le tue generalità per intero, quelle dell'autoveicolo, della polizza auto e del conducente. Punto 3. Le stesse cose dovranno essere indicate dall'altro conducente, cioè nella sezione B. Nella sezione centrale, quella dedicata alle circostanze dell'incidente, si devono indicare con delle crocette i comportamenti tenuti per provocare l'incidente. Ciascuno dei due conducenti dovrà indicare con una croce il punto di impatto del proprio veicolo. Ed insieme dovrete disegnare sommariamente, in un piccolo riquadro, quello con i quadretti immagino, quelle che sono state le dinamiche dell'incidente, la posizione dei due veicoli, la provenienza di ognuno, le strade, la segnaletica e via dicendo. Attenzione, questo diciamo è un po' il sunto del tutto. Condizione importantissima che non devi assolutamente dimenticare è quella di firmare e di far firmare alla controparte il modulo. È questa la condizione essenziale per l'accettazione dello stesso da parte dell'assicurazione. Gli attimi più lunghi della mia vita, quella volta che ero andato con mio fratello e degli amici in piscina. Uno dei miei amici mi ha preso da dietro e spinto dentro la piscina profonda più di 2 metri. Io non sapevo nuotare, pensavo di non uscire più, ma quando meno ci speravo, mio fratello mi ha tirato fuori. È stato come rinascere. Geo da Verona. Io ringrazio tutti quelli che stanno continuando a mandare storie natalizie, o meglio, storie non natalizie ambientate in periodo natalizio, tra gli ultimi Emilio, Federico, guardo la mail che sono arrivate neanche 2 ore fa, continuate a farlo, stiamo lavorando alle puntate natalizie e quindi voi siete qui, radio24.it. Grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto ad Angelo. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, mi chiamo Francesca, abito a St. Andrews in Scozia. La storia di domani è la mia e parla di come ci si sente a casa in un posto che non è casa tua. Questa è la mia storia e io sono qui.